la solita storia del pastore. Il povero ragazzo voleva raccontarla. Dormir così nel sonno almen l'oblio trovar la pace sol cercando io vo. Sempre lei mi parla al cuore.